Euroreportage. I neonazisti d'Ungheria che spaventano l'Europa, di Raffaella Calandra. La destra ha vinto, e questo è sempre un male per la comunità ebraica, come pure per la libertà e la democrazia. Credo che questo governo non sia davvero democratico. Poi noi siamo preoccupati per la presenza del movimento Jobbik, e molti di noi stanno seriamente pensando di lasciare l'Ungheria per andare all'estero, per paura. Dopo aver finito l'università partirò. Noi troviamo spesso anche scritte violente contro di noi sui muri. Ora sono aumentate, ma di certo non sono nuove. La paura a volte è in piccoli gesti, come lo sguardo irrequieto di David davanti alla Nagy Sinagoga di Budapest, la nuova sinagoga, la più grande d'Europa. La kippa in testa, i libri sotto braccio e un'amara ammissione. Io e come me altri, sussurra timoroso, stiamo pensando di andare fuori dall'Ungheria per paura e per ricerca di futuro, un futuro che questo giovane rappresentante della comunità ebraica non vede più in questa città, dove è stato ricostruito un muro all'interno del ghetto a memoria di un drammatico passato non troppo remoto. Un futuro che Davide non pensa più in questo paese per l'avanzata della destra e la presenza sempre più massiccia di un movimento antisemita come Jobbik. Anche per questo, ancora più sentita degli anni scorsi, è stata la partecipazione alla Marcia dei Vivi, la manifestazione con cui è stato ricordato quest'anno il 70° anniversario dalla deportazione degli ebrei. I don't speak about this. Why? Esmoganuj. Esmoganuj. It's dangerous. La voce dei giovani, come questa ragazza che sfoga le sue critiche per il governo Orban come per la destra più estrema, o i giovani come i figli di chi all'epoca era tra i carnefici e oggi non vuole far dimenticare le colpe dei padri, e poi rimbomba l'elenco sterminato delle vittime di tutti quegli ebrei che furono spediti nei campi di concentramento o uccisi e gettati direttamente nel Danubio dopo aver lasciato le scarpe. Stivaletti da donna, scarponi sformati da uomo, ora saldati alla terra a imperitura memoria di quello che fu in uno dei più drammatici e suggestivi monumenti alla Shoah. Siamo lungo il grande fiume, davanti praticamente al Parlamento ungherese, Parlamento in cui però dopo le politiche del 6 aprile si è consolidata ulteriormente la presenza di forze xenofobe e di ispirazione neonazista, arrivati anche a proporre la schedatura degli ebrei ungheresi. E alle elezioni europee di fine maggio, spinto da una campagna fortemente euroscettica, il movimento Jobbik punta a fare il pienone. Sostengo Jobbik perché è l'unico davvero diverso dagli altri. L'unico che davvero combatte solo per gli ungheresi. Dopo molti anni c'è chi finalmente capisce i voleri della gente. E poi è ora di difendere la storia ungherese da tutti. Europa compresa. Vale per noi, vale ancora di più per gli ungheresi che vivono all'estero. Nessuna testa rasata, come quella invece di uno dei dirigenti di questa sezione del movimento Jobbik a Villani Ucka a Budapest. Questo è uno dei giovani che si sta avvicinando agli slogan del partito che a suon di battaglie contro Bruxelles, contro le banche e soprattutto fin dall'inizio contro gli zingari è arrivato al 20% del consenso. Io difendo l'Ungheria. Noi cerchiamo di essere europei, ma non ci sentiamo europei. Gli altri partiti sono tutti ladri. Prendono i soldi dalle famiglie come la mia e basta. Io ne ho abbastanza di tutti e tutto. Bisogna cambiare, sono tutti approfittatori. E poi finalmente si difende il valore della nostra storia. E tu lo conosci il Trattato del Trianon? La storia, come il trattato che dopo la Prima Guerra Mondiale segnò i confini dell'Ungheria e aprì le porte, secondo alcuni, anche alla pulizia etnica di questa parte del mondo, riemerge davanti alla piccola vetrina con la bandiera con i colori del paese e la grande aquila rapace. Le stelle di Bruxelles da queste parti sono state non di rado bruciate, anche se questa è ora la meta del partito, l'Europa, dove puntano ad entrare con ancora più forze e con l'obiettivo di essere uno dei principali movimenti euroscettici seduti sugli scranni dell'Europarlamento, prospettiva che spaventa l'intera Unione. Unione che è destinazione ultima però, ma anche e soprattutto bersaglio qui di ripetute campagne elettorali. Anche se poi, quando fai delle domande precise sull'Unione Europea, ti rispondono che va bene finché si comporta bene, se tratta l'Ungheria sullo stesso livello degli altri paesi, se non chiede troppo. Tutto questo però solo in conversazioni ufficiose, immortalate in un microfono che abbiamo voluto lasciare acceso, perché invece i vertici del movimento Jobbik non hanno ritenuto di concedere un'intervista a Radio 24. In una mail la referente stampa ha respinto la nostra richiesta di un colloquio con i rappresentanti del partito, allegando link a pagine del nostro sito. Siamo considerati stampa nemica dunque, e anche così, con un maniacale controllo delle informazioni e della scelta dei giornalisti amici, Jobbik e come loro molti altri movimenti populisti che fanno tremare Bruxelles in vista del voto del 22-25 maggio ha progressivamente aumentato il consenso. Da una parte le dichiarazioni ufficiali, più ragionevoli, che negano ad esempio ogni ispirazione antisemita e neonazista, vanno bene tutti se rispettano le regole, ripete uno dei funzionari del partito, ma poi in giro per le campagne magiare nei comizi danno fondo a tutto il loro catalogo di slogan più duri. È questo il doppio livello di comunicazione che ha fatto parte della loro forza, secondo Robert Laszlo dell'osservatorio Political Capital, considerato vicino all'opposizione, vera grande sconfitta dell'ultimo voto. Jobbik made a very professional campaign during these last few months. Jobbik ha fatto una campagna mediatica molto professionale. Molti pensano che sia diventato un partito molto più moderato, di centrodestra, ma questo non è il caso. They did a very professional dual campaign. Hanno fatto una campagna su due livelli. Su quello nazionale hanno cercato di chiamare i più giovani, dicendo noi siamo giovani, siamo nuovi e non siamo parte di questa robaccia che c'è stata prima. Siamo diversi da Fidesz e dal centro-sinistra. Siamo l'unica alternativa che può portare un cambiamento. E questo messaggio può fare presa sui giovani. Ma dall'altra parte hanno il livello locale, con tutta la sua forza di estrema destra. Puoi vedere, ad esempio, anche in tutte le loro pagine Facebook simboli e scritte contro gli zingari, contro gli ebrei, la retorica contro l'UE. Extreme right basis on the local level. E questo è il cuore degli elettori. Per allargare il loro bacino, i nuovi voti vengono da persone che davvero non sono contente della politica di Orban. Ci sono anche i tanti disoccupati, ma non solo. Ed è un errore pensare che Jobbik richiami tutti gli sconfitti o solo le classi più basse. Non è vero. Ci sono molti studenti universitari e Jobbik è sostenuta anche dalla classe alta. Molti sono scontenti delle politiche di Orban e non vedono altra alternativa. Reach new voters, making them believing that we are the new force. È questo mix di insoddisfazioni e di profili diversi di elettori, arrivati nel tempo tutti però alla fine sotto la bandiera di Jobbik, a spaventare l'intera Europa. E poco consola il fatto che col cambiamento della legge elettorale il numero di rappresentanti sia di fatto diminuito. È il consenso forte che cresce, spinto pure dalla crisi profonda del centro-sinistra ungherese. E questo, secondo un altro analista, David Kish di Nezopont, think tank considerato filo governativo, è un problema più per l'Unione che per l'Ungheria. Non ci sarà nessuna coalizione tra Fidesz e Jobbik. Il primo ministro e altri l'hanno detto esplicitamente. Volendo poi guardare il fenomeno Jobbik in chiave europea, dico che ci sono molti movimenti euroscettici in giro per il continente, anche più forti di Jobbik. Da quest'ultimo cambiamento di legge elettorale, il vero sconfitto è stato proprio Jobbik, che è cresciuto, ma ha ottenuto meno rappresentanti in Parlamento di prima. Per cui direi che Jobbik è forse un problema per l'Europa, ma non credo per l'Ungheria. This is a Quei cortei di teste rasate e svastiche, quei proclami contro gli zingari prima e le schedature degli ebrei poi, uniti ad un vento di forte euroscetticismo che soffia sulle pianure magiare, alimentato dalla crisi economica, dai costi dell'energia, dalla disoccupazione e poi da una generica insoddisfazione per le politiche decise dal governo Orban, fanno in realtà della destra estrema ungherese una delle minacce più insidiose per il prossimo Parlamento europeo. Seduta sotto una grande bandiera con le stelle dell'Europa Unita, il sottosegretario agli affari esteri con delega all'Europa, Enigio Gori, crede in realtà che questo dilagare di movimenti euroscettici sia un danno pure per la stessa Ungheria. Una chiara no alla politica anti-europea del Jobbik, che è un partito di estrema destra, perché il nostro posto naturale è nell'Unione Europea. Sicuramente vorremmo che le forze pro-europee vengano rafforzate da queste elezioni. Si deve andare a votare, questo è importante. La presenza del movimento Jobbik danneggia l'immagine dell'Ungheria in Europa? Sì, danneggia, perché loro sono non solo sono contro l'Europa, ma anche sono un partito razzista. Che noi abbiamo, il governo e il Fidesz ha una politica di zero tolleranza tutto nel razzismo, antisemitismo, nazismo tutto, e loro con qualche dichiarazione veramente anche al Parlamento hanno fatto cose che non si può dire, non si può neanche pensare, e noi chiaramente siamo contro questo tipo di politica, questo tipo di dichiarazioni. Dalle pianure magiare si leva un vento insidioso dal sapore antisemita che scuote la comunità ebraica locale ma fa tremare l'intera Europa. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.